Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24, parliamo con l'elefante, è dedicato oggi a José Mario Mourinho, l'allenatore dell'Inter, un personaggio secondo me assolutamente straordinario, al quale si dedicano le attenzioni benevole ma soprattutto malevole di tutto l'establishment sportivo. La Gazzetta dello Sport oggi ha azzeccato il titolo: processigno. Tutti contro Mourinho. Mourinho è un personaggio straordinario perché usa la parola. Certo, c'è la palla da mettere in gol e l'ultima volta che ci ha provato ne ha presi tre. Però è un grande allenatore al quale vengono riconosciuti i diritti del vincente, ma non è solo quello. Nel mondo pallocoloso del calcio italiano Mourinho è un'eccezione. Sembra non avere padroni, sembra non avere legge. Sentitelo. A me non mi piace prostituzione intellettuale. Io non critico mai un giocatore che non gioca bene. Ma io non sono Pirla. Ma no, la nostra vita è bellissima, è una vita per persone senza paura. Per persone che lavorano, non che scrivono sul lavoro degli altri. Stanchezza è quando un papà di famiglia va a casa dopo 15 ore di lavoro e arriva a casa con 400 euro per un mese, questo è una vera stanchezza, una vera difficoltà. Io che sono il bravo, io non parlo alla stampa. E chissà qualcuno paga per parlare alla stampa, io rifiuto interviste in cui mi pagano a me. È il mio lavoro, mi pagano per fare questo lavoro, ho un contratto con l'Inter, e l'Inter ha un contratto con i media. Tutti i giorni mi dice Corriere della Sera, tutti i giorni mi dice Gazzetta dello Sport, io dico sempre di no. Io che sono il bravo, io non manipolo l'opinione, non manipolo l'opinione pubblica. E questo è il nostro lavoro, la nostra vita è così. È una vita che tu non hai tempo per piangere. Tu perdi domani un altro giorno. Tu vinci, non c'è tempo di festeggiare una vittoria. 91 giorni mancano per io dire a tutta l'Italia arrivederci, buone vacanze. Chi vado di vacanze per un mese e mezzo, arrivederci. In un bell'articolo sull'Espresso di Enrico Arosio, pubblicato nello scorso mese di agosto, si citava il grande scrittore lusitano Pessoa, o Pessoa, o non so come ostia si debba pronunciare il suo cognome, da sempre non lo so. Il buon portoghese è varie persone. Mourinho, secondo me, è la contraddizione in termini rispetto a questa idea plurale dell'individuo. È proprio la personalità integra. È il dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo giocatore, è, come dire, il comandante in capo che è chiamato e si fa chiamare con una bella, preziosa, non ipocrita vanità, the special one, il numero uno, e in più un numero uno di caratura speciale, una specie di gioiello. Insomma, Mourinho è veramente un guru, qualcuno che parla in un italiano imparato in 3 mesi e ne parla con cognizione di causa, con precisione terminologica e con una certa saldezza affettiva, emozionale, di prostituzione intellettuale. È qualcuno che è capace, senza offendere, ma colpendo duro, di indicare nome e cognome, cosa mai successa nel mondo del dopo partita, della chiacchiera da bar sport, con nome e cognome i suoi avversari, i suoi nemici. Mourinho è, qualcuno lo ha detto e lo ha scritto, l'inimicizia assoluta, è il grande antipatico, ma proprio per questo è un personaggio significativo, uno dei pochi su una scena abbastanza desolante, abbastanza morbosamente desolante, com'è la scena pubblica italiana di oggi. E questa sua forza l'ha portata su tutti i teatri nei quali ha interpretato il suo ruolo di grande attore, di primo attore, di attore giovane. È stato così in Inghilterra, dove non lo potevano vedere e lo chiamavano José Merdigno, ed è così in Italia, dove si sta accumulando contro di lui una valanga di antipatia della quale oggi dovremo ragionare. A me invece sembra il simpatico assoluto, il simpatico per antonomasia. Eccoci qui per parlare con simpatia e ironia e anche con antipatia e sarcasmo di José Mario Mourinho. Sono qui radunati e sono tutti ringraziati per aver accettato il nostro invito Lanfranco Pace, editorialista del Foglio, autore di un libro biografico su Nicolas Sarkozy, un altro guru puntuto, spigoloso sulla scena europea, Rina Gagliardi, editorialista del Riformista ed esperta di calcio, già senatrice di Rifondazione Comunista, Giancarlo Dotto, che scrive sulla Stampa, editorialista di quel giornale ed è autore di un recente La squadra perfetta, un libro sul Milan di Arrigo Sacchi, ma secondo me qualunque nome di qualunque allenatore ormai impallidisce, svanisce, diciamo, nella nebbia della storia. C'è solo Mourinho, ci sarà solo Mourinho. Edmondo Berselli, editorialista della Repubblica e dell'Espresso, autore di moltissimi libri, l'ultimo dei quali fu dedicato alla sconfitta della sinistra. Sinistrati, storia sentimentale di una catastrofe politica. Berselli, e cominciamo da lui, è autore di una metafora che è fortunata, che è respinta da molti. Mourinho sarebbe un leninista, interpretazione politica di Mourinho. Che significa, Berselli? No, mi è sembrato che la capacità dialettica di Mourinho non si applichi in modo così rigoroso soltanto al calcio. Mi sembra che Mourinho sia una specie di leader politico e la politica proseguita con altri mezzi, cioè con i mezzi del calcio, in un ambiente, come hai detto tu, in cui vige il conformismo più truce e la ferocia è sempre stata ammantata di gesti scontati, di conformismi biechi, le parole chiare, le parole violente, le parole furenti, talvolta le parole anche femminee, come si sente con quell'inflessione della voce. Il falsetto, si chiama il falsetto, lo fa come pochi al mondo, perché non ha una voce corta, monotona, Mourinho, una bella voce. No, un falsetto che... di quelli davvero che io la settecentesco probabilmente. Sì. Che per questo io ho parlato anche di una sua tendenza musicale nel modo di parlare che può condurlo vicino al fado, a quell'espressività lusitana così suggestiva e piena di tristezza, di amarezza, di dolore, di sofferenza e che gli ha dato la possibilità, lui si è creato la possibilità di trasformare una squadra, una società fortissima e piena di soldi e di grandi campioni in una specie di fortino assediato dai cattivi, dei maligni, dagli insidiosi. Ecco un maligno, Cristian da Pescara, ecco un maligno. Cristian, scherzo naturalmente. Buongiorno. Dica Cristian. Mi dispiace parlare di un argomento così frivolo con lei, però è piacere di parlare con lei anche per questo, va bene. Grazie Cristian, dica. Sono tifoso milanista, però anch'io sono stregato in positivo del personaggio di Mourinho e ammetto la sua bravura nell'essere e nel cercare di essere sempre e comunque personaggio, e chi gli è intorno ci casca sempre. Ora, come allenatore, per me, insomma, ognuno può dire la sua, poi in Italia siamo tutti allenatori, insomma. Certo. Mi complimento con il signor Emanuele Dotto per il libro La squadra perfetta, da milanista e da sacchiano. Dotto, sì. Ma lei come allenatore non lo stima Mourinho? Ma non perché lui fa un catenaccio, secondo me, io ho giocato in catenaccio, troppa difesa. Un catenaccio moderno, diciamo, però va sulla città della sua squadra e tanto prima o poi, cioè, è quadrata, la squadra è quadrata, non prende gol. A parte ora l'ultima uscita con la Roma e con la Sampdoria. L'ultima volta tre le ha prese, tre pappette. Sì, però sono gli ultimi gol che prende l'Inter di Mourinho, sì, sono certo di questo. Diciamo che sono episodi. Cristiano Ronaldo può andarsi a riporre, altro che... Sì, altro con che, la altro Sampdoria, che... se avesse vinto 6-3... Mercoledì prossimo sarà un bagno per il Manchester United. Un bagno, un bagno. Comunque la ringrazio e passerei senz'altro la parola a Rina Gagliardi, perché tra le metafore che hanno cantato già Mourinho di Berselli, oltre a quella del fado, bellissima, c'è sempre quella del leninismo. Rina Gagliardi è comunista, quindi devo chiedere a lei se Mourinho è la domanda più bieca, più stupida, più cretina, più imbecille che si possa fare, però va fatta, perché Mourinho è detto anche conservatore, familista, cattolico, una volta si è fatto il segno della croce e il giornalista collettivo, che è il giornalista più stupido che c'è, un po' tutti noi, è andato lì e gli ha detto: ma lei è superstizioso? Lui ha detto: veramente no, sono cattolico. Allora, Rina, è di destra o di sinistra? Questa è la domanda imbecille che le faccio. Sì, Ciao Giuliano, prima di tutto. Buongiorno. Devo fare una piccola premessa. Aia, la premessa è la nemica delle chiacchierate. No, ma sono di un'altra parrocchia, quindi lo devo dire. Io faccio il tifo per la Fiorentina, come sai una squadra molto minore rispetto alle grandi del nord, e quindi seguo questa vicenda con molto divertimento e curiosità, ma anche con grande distacco. Non so se hai presente quello striscione che fu esposto durante una partita allo stadio di Firenze. Grandi squadre del nord ci fate un po' schifo, quindi esprimo questa posizione in genere. No, io alla tua domanda rispondo così. Secondo me Mourinho invece è un personaggio vero, quindi capisco anche l'entusiasmo in questo mondo così piatto e banalizzato. Però a me sembra assolutamente un chiaro esempio di sovversivismo delle classi dirigenti. Quindi la politica c'entra, ma addirittura io direi in questo senso alto. Il sovversivismo delle classi dirigenti non è di sinistra, non puoi più facilmente direi che lo si colloca a destra, perché è un personaggio vincente, è un personaggio che comanda, è uno... È ricco, vive nella villa Ratti sul lago di Como, è un uomo di successo, sì. Però sembra un ribelle. Però fa la rivoluzione, quindi fa casino, destabilizza, attacca, appunto come tu hai detto giustamente, fa la guerra, contrattacca. Si trasforma da accusato forse, in accusato. Forse è per questo, Rina, e passo la domanda a Lanfranco Pace che è qui e poi sentiremo Giancarlo Dotto, forse è per questo che non piace, guarda un po', a Giulio Andreotti, il quale Giulio Andreotti è tutta l'altra filosofia, durare, non rompere mai le regole, sopravvivere. Andreotti ha detto, mentre Cicchitto, il capogruppo del Partito delle Libertà, diceva ma com'è che processano Mourinho per le cose che ha detto in una conferenza stampa? La giustizia sportiva è forse al di sopra della Costituzione? Domanda, secondo me, legittima. Andreotti ha detto no, è bene che sia così, perché altrimenti non si governa più niente nel mondo del calcio, bisogna mettere dei limiti, dei paletti, delle regole, e non devono potersi esprimere liberamente. Pace. Beh, bisognerebbe chiedere a Franco Evangelisti, che è stato la lunga manus di Andreotti nel calcio. Insomma, Mourinho è un ciclone. Anch'io, come l'ascoltatore di prima, sono milanista, sono un fan di Enrico Sacchi. Se Enrico Sacchi dice che José Mourinho è un grande allenatore, è certamente un grande allenatore. Di mio aggiungo che è un grandissimo comunicatore. Anzi, è Silvio Berlusconi che ha capito che la migliore comunicazione è l'attacco. E Mourinho ha sempre fatto questo. Da quando allenava il Porto, perché se no non vai alla corte di Abramovic, non mandi manco a quel paese i miliardari oligarchi russi e finirai alla corte di Moratti, dopo un po' si stancherà anche di questa mummificazione dell'interismo che rappresenta un po' il clan dei Moratti e se ne andrà per altri lidi. È uno che parla cinque lingue, non dirà mai strunze come Trapattoni, non dirà mai le cose approssimative dei nostri allenatori all'estero. E diciamo, insomma, è uno che probabilmente non ci avrà un gioco sfavillante e brillante, ma chi ce l'ha sto gioco sfavillante e brillante? Non credo, per esempio, che ce l'abbia Capello, che ha vinto su difese solide e poi dice un catenacciaro. No, non è mai stato un catenacciaro Mourinho, perché giocare con quattro attaccanti, due ali che tornano sempre, non vuol dire essere catenacciaro. Quindi, secondo me, è un grande allenatore. E però soprattutto è un formidabile ciclone che si è abbattuto su questo mondo ammuffito del calcio italiano. Giancarlo Dotto è stato il più critico dopo l'ormai celebre storico monologo di Mourinho. Ha scritto in un articolo sapido e divertente delle cose che mi hanno fatto veramente molto male. Gli ha dato della macchietta, insomma lo ha attaccato per ogni verso. Dalla per mole ogni antonelliana. E quindi era giusto che Giancarlo Dotto adesso porti la sua testimonianza. Io sono un po' a lutto, ma insomma, dica Dotto. No, beh, non è vero che ho dato una macchietta. Io intanto stravedo per Ferrara, quindi stravedo anche per le sue passioni e per le sue passioni grazie e i suoi slanci. In questo caso non sono del tutto d'accordo. Devo dire, tra l'altro, che dandogli del simpatico le ha fatto a Mourinho un'offesa praticamente unica a dare, in quanto lui si nutre di nemici, quindi si alimenta di nemici, quindi e dandogli del simpatico, insomma, non è certamente una cosa che l'ha reso felice. Insomma. Io provo intanto una forte allergia per chiunque si prende molto, molto sul serio, insomma, sono d'accordo sulla grandezza del personaggio, tant'è vero che siamo qui a discuterne su più fronti. Sono una persona che tende a farsi stregare molto facilmente e lui non mi strega affatto. Mi sembra che dice una somma di banalità. Fare diciamo la cacca nel salotto delle mummie non è che mi fa esultare così a prescindere, dipende anche dal profumo, dipende da quello che si dice. Secondo me lui anche in questa occasione così celebrata ha detto una bella somma di banalità, insomma. Mi colpisce un po' questa fissità, più che il falsetto, che trovo anche piuttosto sgradevole, perché del femminile prende l'isterico, insomma. Questa è una battuta però scorretta politicamente, ideologicamente, l'avverto. Io qui ho le mie collaboratrici, Gloria Guerrera e Franca Fossati, che stanno ridendo amaro. Del femminile prende l'isterico, non lo doveva dire. No. Ma non c'è nulla di offensivo nella parola, però trovo che sia un cedimento della voce, non trovo che vecchia sia una variante della voce, trovo che sia un cedimento isterico della voce, quindi fastidiosa a sentirsi, insomma. E poi mi colpisce molto, mi turba molto questa fissità paranoide dello sguardo, che mi fa pensare, perché lei prima ha detto che lui non ha padroni, lui ha un padrone assoluto. Fissità paranoide, ma è come Gary Cooper, cioè la fissità paranoide di uno che guarda lontano, non è mica... No. Che guarda se stesso, lui vive al servizio del culto della personalità di se stesso, quindi ha un padrone assoluto, è schiavo di se stesso. E tutti quelli che lui incrocia nella sua vita... Tutti si chiama autodeterminazione, la stiamo sempre lodando nelle polemiche filosofiche ed etiche. Autodeterminazione. Autostima. Prego, dottor. Ecco, no, appunto, voglio dire, tutti questi nemici che lui incrocia, che sono tanti, perché praticamente non ha risparmiato nessuno in questi anni, sono tutti pretesti per in realtà alimentare e celebrare se stesso. Temo anche alla luce, poi parlava prima di grande leader, no? Di Mourinho come grande leader, eccetera. Dopo l'ultima uscita, intendo l'uscita alla fine della disastrosa partita con la Sampdoria, in cui ha praticamente fatto a pezzi metà della rosa, metà dell'organico dell'Inter, io credo che vada messa in discussione anche il suo ruolo di leader, perché non credo che un leader che tende a fare della sua comunità una comunità forte, appunto, si parlava di autostima. Che autostima può avere adesso la sua squadra dopo che lui l'ha pubblicamente dileggiata in quei toni che sappiamo? Anche qui... Ma lui sa usare in funzione motivazionale, posso parlare come un sociologo del calcio, anche il sadismo, anche la grandezza di Mourinho è lì, lui è sadico, dice non siete capaci, siete una squadra di puntini, avete vinto burocraticamente, in segreteria, adesso dovete fare di più e meglio, cioè, capito, è sadico. Diciamo che Mourinho piace alla parte... Ecco, questo sì, alla parte femminea di noi, alla parte masochista di noi, che evidentemente ama essere fustigata, eccetera. Quando è vero che il mondo del calcio è una palude di una mediocrità assoluta, ma perché dovrebbe essere diverso da questo? Perché dovremmo aspettarci da un Trapattoni, da un Capello, altro che da questo? Perché abbiamo il diritto di perseguire la felicità, lo dice anche la Costituzione americana. Ma la felicità è anche prendere atto delle cose come sono. E allora, se cose sono questa è felicità. Io non è che mi aspetto da un Trapattoni, da un Capello che parlino diversamente da quello che so. Che dolori che mi ha dato dotto. Ciro da Napoli. Ciro da Napoli, per consolarmi un po'. Ferrara, buongiorno. Ciro. Senta, buongiorno. Io stravedo per il personaggio Mourinho, perché per me è una persona sicuramente seria. È arrivato in Italia che già era padrone della lingua. È un personaggio educato, è vero, perché io, essendo abbonato a Inter Channel, seguo tutte le sue interviste e non ha mai offeso alcuna persona, ha sempre detto delle verità che gli altri non dicono, purtroppo sono banali, ma perché gli altri non le dicono. Poi è una persona competente, perché ha cambiato, è venuto in Italia con un'idea di calcio, le due ali, il centravanti, ha visto che non andava, ha cambiato, cioè tutti possono cambiare idea, questo lo fa pure una persona intelligente, è un vincente perché il suo palmarès parla da sé, ed è un furbo perché praticamente attira a sé l'attenzione dei media facendo in modo che la squadra si alleni in tutta tranquillità, e quindi poi dopo i risultati si vedranno. Ecco, questo volevo dire, se lei è d'accordo con me. Ciro, non è che sono d'accordo con lei, io la incenserei così, col turibolo proprio, mi sembra. Da lei ispira un odore di santità concettuale, intellettuale, altro che prostituzione intellettuale. Grazie per la sua magnifica testimonianza. L'unico competitore in Europa, 800-24-0024, stiamo parlando di lui, di Mu, dell'allenatore dell'Inter, Mourinho. L'unico competitore di Mourinho in Europa è Sir Alex Ferguson, il quale, allenando il Manchester United, nel 2003 lanciò gli scarpini a quel furbetto di David Beckham. C'è perfino chi dice che queste uscite di Mourinho siano il primo passo per un suo trasferimento proprio alla squadra che mercoledì prossimo l'Inter batterà 3-0, il Manchester United. Ora, naturalmente queste sono informazioni riservate che io vi do, non previsioni. Ora, c'è anche però chi dice che Mourinho è peggio della grande, vecchia cultura dell'allenatore, del grande allenatore italiano. Nereo Rocco, per esempio, una figura che tutti rispettiamo e di cui Gigi Garanzini, giornalista del Sole 24 Ore, ha scritto una celebre biografia. Nereo Rocco era un allenatore triestino che si fece valere al Milan in particolare. Garanzini dice, lo racconta oggi al Riformista, dice che insomma quella bella saggezza popolare contadina di Rocco lo portava ad avere un grande rispetto, il Paron aveva un grande rispetto dei giornalisti, anche Elenio Herrera, tacca la bala, aveva un gran rispetto dei giornalisti. Beh, sono i primi effettivamente, perché si dimentica spesso la tradizione dei mister italiani, Gippo Viani e Fulvio Bernardini, che sono un po' gli antesignani del calcio post bellico, che i giornalisti pallonari li detestavano, tant'è che Gippo Viani si inventò Nereo Rocco proprio perché andasse a cena con Gianni Brera. Allora la forza di Rocco dov'era? Che se gli dicevano che vinca il migliore, lui diceva ciò speremo di no, perché appunto lui pensava di non essere il migliore. Ma non si può pensare che nell'era del calcio, special two, ma veramente, Nereo Rocco era un grandissimo personaggio anche lui, ma era un personaggio delle campagne nostre, no? Non si può pensare che nel pallone miliardario trasversale universale che va dal Giappone agli Emirati. Risentiamo Berselli su questo, il vecchio allenatore con la vecchia cultura calcistica, diciamo mediatrice, insomma, l'allenatore andreottiano contro l'allenatore mourinhiano, che ne dice lei? No, io devo dire, innanzitutto riconosco che lei, Giuliano Ferrara, sta trattando Mourinho con parole che ha dedicato in passato soltanto al cantante Neffa all'epoca del Festival di Sanremo di Tony Renice, e quindi capisco la grandezza di questa argomentazione e aggiungo allora... Ma lei è un archivio vivente, io non mi ricordo neanche chi sia questo Nesta. Come si chiama? Fa 3 anni che ci ricorderà di Mourinho. No, Mourinho mi rimarrà nel cuore per tutta Mourinho la vita. Sia io ragiono in questi termini, io sono juventino, chiarisco, sono juventino nello stesso modo in cui sono monoteista, sono non fondamentalista. Io sono molto contento che Mourinho esista e sia l'allenatore dell'Inter, perché ci riporta in realtà alla grande rivalità, all'inimicizia, all'ostilità che c'era all'epoca dei 60, quando l'allenatore dell'Inter del vecchio Moratti era Elenio Herrera, detto Abla Abla da Brera, detto HH, un uomo odioso per tutta la tifoseria juventina. Successe che in una partita al comunale con una Juve debolissima, devo dire, il grande genio satanico Omar Sivori si avvicinò alla panchina dell'Inter e tirò una pallonata contro la testa scolpitissima del mago, come lo chiamavano. Sbagliò la mira, ma e la Juve perse 3-4-1, ma lo stadio comunale di Torino venne giù per gli applausi e per l'ovazione. Ecco, credo che il principio di ostilità rappresentato da Mourinho è in parte nuovo, in parte postmoderno, ma anche in parte antico, risale proprio alle origini della faziosità, del campanilismo, del tifo, e in questo penso che ci sia la grandezza, da lei ormai codificata, di Mourinho, cioè l'essere insieme a un principio arcaico di contrapposizione e un principio modernissimo di elaborazione dialettica. Tremendo, e poi appunto lo dice con queste formule, per esempio immagino che sia stata una staffilata terribile per lei, che però è una persona intelligente, quindi un tifoso adulto, ecco, come Prodi, un cattolico adulto, quando ha detto la Juve titoli zero. Se lo ricorda nel monologo quando ha detto la Juve titoli zero. La Roma, il Milan, tutti. Lui ha attribuito zero in tabella, in classifica. Zero a tutti. Titoli. Credo che in questo ci sia, devo dire, la sua capacità provocatoria e la sua capacità davvero di evocare questo principio di alienità, nel senso di alien, l'ostilità assoluta, questa Rina Gagliardi, creatura. Rina Gagliardi, il sovversivismo delle classi dominanti. Sì, Gramsci. Dica. Dunque, no, una cosa volevo dire a proposito di questi paralleli audaci, no? Mi pare che sei stato tu a parlare del filosofo di Setúbal, no? Come se in questo non mi pare che sia esatta questa definizione. Mi avete fatto venire in mente che fu chiamato da tutti il filosofo un allenatore italiano, forse minore, che si chiamava Manlio Scopigno. Non so se qualcuno se lo come ricorda. No, allenatore del Cagliari, cioè. Allenatore del Cagliari che presumibilmente fu chiamato così perché insomma era uno che ragionava, insomma, non faceva gronta, no? All'epoca gli allenatori, i calciatori e tutti quelli che ruotano. Sì, c'è stata un'epoca in cui lo sportivo diceva sempre sono arrivato uno. Sì, è un'epoca arcaica in cui si esprimeva in modo rozzo, elementare. Poi però è arrivato, invece Scopigno, no? Faceva delle cose più sottili, disquisiva. Ora non mi sembra che Mourinho sia così sottile nelle sue disquisizioni. Quindi vorrei solo contestare questa definizione di filosofo che gli avete un po' generosamente regalato sul capitolo. Va bene, Oreste da Bergamo e poi Dotto. Oreste mi sembra molto equilibrato. Prego, Oreste. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io non approvo quello che ha detto Mourinho, però devo essere onesto. Mi è piaciuto il fatto che lo abbia fatto mettendoci la faccia, cioè prima di ottenere i risultati. Quindi adesso lui dovrà dimostrare, facendo magari non godere metà dell'Italia, che è un bravo allenatore. Adesso lo vedremo, insomma. Ecco. Lo vedremo. Grazie. Alessandro da Milano, che ha un'ipotesi un po' gialla. No, beh, io volevo più che altro chiedere una sua opinione sul personaggio Mourinho, se effettivamente è un rivoluzionario e un antisistema, come io credo, oppure se è dell'opinione espressa su un fondo, un articolo di fondo di un quotidiano sportivo che dice no, è esattamente inserito nel sistema e tutte queste messe in scena sono per preparare il terreno arbitrale in vista di Juventus-Inter, quindi un che di strategico ma inserito all'interno del sistema. Sentiamo cosa ne pensa Dotto. Io ovviamente lo capisco cosa ne penso. Penso che è un rivoluzionario, un puro, e la sua innocenza e anche incandescenza, insomma, io non posso che pensare bene di Mourinho. Sentiamo Dotto invece. È artificiale Mourinho? Io sento che l'effetto di Ferrara su di me è tale che sto per convertirmi anch'io alla chiesa di Mourinho. Ma prima di convertirmi vorrei tentare un altro paio di assalti alla fortezza. Assolutamente artificiale, nulla di innocente nel personaggio. Anche quando sentivo prima l'ascoltatore che diceva ha imparato la lingua, no? Questo elogio del lui ha imparato furiosamente la lingua italiana come avrebbe imparato qualsiasi lingua del mondo furiosamente, perché gli serviva di apprendere in fretta lo strumento per poter iniziare la sua strategia di manipolazione rispetto al mondo esterno. Per questo impara furiosamente la lingua, altrimenti come fa a manipolare lui, grande manipolatore? Sì, José Nieto, autore di una biografia non autorizzata, Mourinho, The True Story, sostiene, lo racconta Arosio, che l'allenatore dell'Inter è brillante nel giocare, vedi, tornano un po' di cose che abbiamo detto e che anche lei ha detto nel corso della trasmissione, con la psiche delle persone, che siano i giornalisti, gli arbitri, gli avversari o il suo stesso staff. Sì, questo qui è vero, lui ha un uso assolutamente strategico della parola. Abbiamo visto, hanno fatto vedere, credo su Sky, degli sketch del passato, quando allenava il Chelsea, in cui si sono viste delle gag da lui fatte in Italia assolutamente uguali, ovviamente in lingua inglese, quindi lui ha un uso assolutamente strategico della parola, esattamente come Zeman, altro grande personaggio sicuramente non banale, ha un uso strategico dei silenzi, insomma. Però ecco, io preferisco il paragone con Herrera, è ingeneroso nei confronti di Herrera. Herrera veramente era un genio, era di una grandezza assoluta, perché Herrera si perdeva nella parola, nella lingua. Herrera si era inventato, essendo lui uno zingaro, si era inventato una lingua non esistente nella quale lui si perdeva, e questo delirio era il suo fascino, mentre il caso di Mourinho è un caso assolutamente opposto. Però Herrera era divertente, diciamo, no? Era un trascinatore. Era odiato, ma non era temuto. Ecco, invece Mourinho è temuto. Io mi auguro che prenda le redini del paese, dell'Europa. Basta vedere la faccia di Mario Sconcerti, dell'amico caro Mario Questa Sconcerti. È pace che dice le sue cattiverie. C'era una cupezza nella faccia di Sconcerti, a dire il vero, un po' eccessiva. Senta, dotto, qui dobbiamo cominciare a discutere anche di Mourinho e Moratti. Perché Moratti è quella personalità di rango, di un'antica e importante famiglia della borghesia milanese, che ha l'Inter ormai da tanto tempo nelle sue mani, che ha investito un sacco di soldi nel parco giocatori che Mourinho gli ha svalutato l'altro giorno, che gli ha smantellato, sì, in modo grave anche finanziariamente ed economicamente. Però c'è questa questione: Moratti sembrerebbe il contrario di Mourinho. Moratti ha quella correttezza, non è una persona ipocrita, ma è una persona, diciamo, che non vuole smarginare mai, vuole stare dentro un protocollo, ha una certa, è il contrario di un sovversivo dal punto di vista dell'establishment, è proprio un uomo di establishment. Come vanno loro due? Cominci lei, dotto, e poi sentiamo Pace. Come potranno intendersi? In Moratti c'è una timidezza congenita, ma in tutta questa timidezza c'è poi galleggia appunto l'aspirazione ad essere altro, e in questo momento lui è il primo plagiato, il primo sedotto, e per il momento non abbandonato, anche se temo che sarà abbandonato molto presto, perché poi Mourinho, in questa sua grandezza, diciamo così, anche si fa pochi scrupoli nel lasciare alle spalle, quindi sedotto e tra poco abbandonato. Lui vede in Mourinho quello che vorrebbe essere, ma non è, perché insomma dietro la sua timidezza poi, faccio un esempio, è chiaro che per esempio Moratti una grande passione per le telecamere, però non riesce a padroneggiare la telecamera in virtù di questa timidezza congenita. Quindi vedere questo Mourinho, che invece non solo controlla la telecamera, ma una padronanza assoluta, detta i tempi, schiaccia l'uditorio, è evidentemente per lui uno spettacolo di una bellezza grandiosa. La parola a un altro oppositore, mi metto i tappi, mi tolgo le cuffie e mi metto i tappi. Francesco dalla provincia di Milano, prego, prego. Pronto? Oi, Francesco, è oppositore. Buongiorno, ma qui si sentono rumori domestici. Sono al lavoro, mi ero distratto. Ah, ecco. Allora, volevo dire che secondo non me... Non sia troppo duro, per favore, che mi dà un dispiacere personale. No, e non a caso piace a Ferrara, è il figlio dei nostri tempi, cioè è un grande manipolatore della realtà, come io lo faccio questo parlare con Berlusconi, no? Si parla ma lei ce l'ha con me, allora... No, ma si parlava prima di Nereo Rocco e il politico era Togliatti. Nereo Rocco sarebbe come Franceschini. Mourinho c'è al tempo di Berlusconi, insomma, quindi quando dice le sue stupidaggini lo fa per mascherare dei problemi veramente gravi della sua squadra, che non ha gioco, che perde, dà la colpa all'arbitro, agli altri allenatori. Berlusconi, non so, c'è la crisi economica, dà dell'abbronzato a Obama, così voi per tre giorni parlate di questa stupidata e non parlate dei problemi seri. Questa è la, non so. Ho capito. Ma pensi che a me invece Mourinho sembra simile a Obama, tra l'altro hanno lo stesso brizzolato, hanno un po' anche la stessa tinta, lo stesso colore. A lei non piace il paragone Mourinho-Obama? Francesco, è tornato a lavorare. Mi ha tirato una palla di fango e torna a lavorare. No, così. No. Io sono più sul discorso Mourinho Berlusconi. Garantini l'ha definito un ciarlatano e io. Ha definito Mourinho un ciarlatano e non Berlusconi. Berlusconi lo definisco io un ciarlatano, quindi ecco. Ah, così, palle di fango per tutti. Va bene, siamo liberali, accettiamo qualunque insulto, qualunque ingiuria, purché si preservi, diciamo, la buona reputazione di Mu. Finalmente una voce femminile irrompe nel processigno a Mourinho. Tina dalla provincia di Milano. Tina, buongiorno. Buongiorno, dottor Ferrara. Volevo pendiamo dalle sue labbra. Come? Pendiamo dalle sue labbra. Sì, volevo spezzare una lancia a favore di Mourinho, naturalmente. Secondo me è lo sgarbi del calcio. Ci voleva. Io sono milanista e berlusconiana doc, tanto per... ho sentito l'interlocutore che mi ha preceduto, insomma, mi si sono rizzati i capelli. Ecco, però... E voglio spezzare una lancia. Allora, posso dire anche io qualcosa, insomma, che grazie al cielo abbiamo Berlusconi al governo, così facciamo pandan. ecco. Niente, Mourinho volevo dire che è un grande manager di se stesso, soprattutto un grande carisma, lasciamolo fare perché è di una simpatia unica. Magari avesse il carisma che ha lui Ancelotti, ma non per questo momento. Che colpo all'allenatore della sua squadra. Ancelotti è carino, così tutto rotondo, non si tocchi il parmense. Ecco, il carisma di Mourinho è un'iniezione di energia tutte le volte che parla. Dica la verità, è anche bello per questo. E anche, sicuramente sì. Parecchio, sì, indubbiamente, insomma. Le dico, è più bello lui o Clooney? No, Clooney è di sinistra, quindi preferisco Mourinho. Ah, accidenti! Va bene. Allora, torniamo alla questione Moratti-Mourinho, perché appunto, insomma, e poi la questione delle questioni, insomma. Lui, Mourinho, dà l'idea di non avere padrone, ma un padrone ce l'ha. Come andrà a finire Gagliardi, secondo lei? Secondo me va a finire male per Moratti, perché appunto in tutte queste cose molto divertenti si trascura il fatto che il merito principale di Mourinho, no, è di avere completamente rovesciato l'immagine dell'Inter, che mi sembra negli ultimi anni storicamente era, insomma non storicamente, negli ultimi anni era una squadra fragile, perdente, insomma era la squadra minore delle grandi squadre, no, rispetto a Juventus e Milan. Adesso l'Inter, grazie a Mourinho, ha preso il ruolo della Juventus nell'immaginario calcistico, lineetta politico, e il pandan perfetto è proprio Moratti. Cioè Mourinho è il contrario di Moratti, lo rovescia, no? E quindi secondo me se ne andrà presto, e comunque nella partita tra queste due figure è chiaro che in un'epoca spietata come la nostra vincerà Mourinho. Io vorrei concludere qui dicendo che una cosa che mi hai fatto venire in mente in tutta questa trasmissione: ho capito perché ti piace Mourinho, Giuliano, perché hai questo entusiasmo, siete due grandi giocolieri della parola, sia pure in modo diverso, vi piace giocare. Grazie, ma essere anche solo indirettamente paragonato a Mourinho, non sono veramente degno. Secondo me tu sei meglio di Mourinho. Non sono degno. Mi sei molto più simpatico. Grazie. Pace, Mourinho e Moratti, come va a finire? Va a finire che Mourinho resta fino a che non vince la Coppa Campioni, è semplice. E poi va al posto di Alex Ferguson. Non ci credo, queste cose qua si dicono sempre, ma insomma, a parte che questa volta non gli va bene a Mourinho, perché a Manchester perde. No, come io ho dato 3-0. Tu hai dato un 3-0, ma dai dei pronostici così, dai dei numeri in aria, un po' campati in aria. Ma perché dicono che nel calcio quando uno gioca fuori casa è svantaggiato. Ma no, ma il Manchester è veramente forte, come direbbe Arrigo, è molto più squadra. Potrebbero esserci errori arbitrali, però. Attenzione. No, errori arbitrali non se ne fanno a quel livello. No. Quella andrà, che Mourinho probabilmente perderà, o almeno ce lo gufiamo tutti quanti, 7 milioni, 8 milioni. Ho un lettore spiritoso contrario alla mia campagna sul foglio a favore di Mourinho che ha scritto, dice: ma manipolazione, come dice Mourinho. Io le mani le ho viste usate molto da Adriano, sì, in un gol recente. La ragione per cui tutti i milanisti amano Mourinho mi è un po' strana invece, perché Mourinho non sarebbe mai una allenatore da Milan, anche che c'è Berlusconi. No, se ci fosse Mourinho dovrebbe andare via Berlusconi, come suggerisce Vittorio Feltri a Berlusconi. Gli dice di vendere il Milan, cioè queste cose pazze che solo in Italia succedono. Ah no, pensavo di dimettersi da Presidente del Consiglio in favore di Mourinho. No, al contrario, sarebbe ancora pazzo. Va bene, cioè, in va un mondo di ammiccamenti e di palloccole va tutto bene. Berselli, io penso che insomma sarà dura per voi juventini, no? Ma io penso che comunque il destino di Mourinho sarà comunque spettacolare, non so se andrà al posto di Ferguson, ma penso che nella sua vita, nella sua carriera ci potranno essere anche magari invenzioni laterali. Finire per l'appunto la Juventus e allenare la Juve scegliendo come direttore sportivo, che so, l'Apo e il Can, oppure mettersi insieme con David Beckham e finire in un atollo della Micronesia, cose comunque estreme. Diventare un produttore cinematografico a Hollywood, non so. Finire a Hollywood, come si diceva, come fu detto di Mussolini, che sarebbe finito attore Hollywood anche lui se fosse sopravvissuto al fascismo. Ora il tempo è finito, ma se grazie Berselli, ma se Dotto volesse per cortesia dire mi sono convertito a Mourinho alla fine della trasmissione, insomma io andrei in brodo di giuggiole, ma non chiedo tanto. No, no, io mi sono convertito Ferrara per amor suo, però se prepari a due piccoli o grandi dispiaceri, decide lei. Uno che l'Inter perderà di brutto a Manchester, e due che Mourinho, andando verso un destino sicuramente spettacolare, questo sì, ma lascerà l'Inter molto presto, magari andrà in Spagna, dopo essere stato in Inghilterra, in Italia, e averci spiegato a parole sue, perché siamo una nazione miserevole, andrà a fare la stessa cosa in Spagna, che infatti lo sta aspettando. Vabbè, dovesse mai succedere, caro Dotto, che l'Inter perda a Manchester, io ho pronta la risposta: la derrota è del blason dell'alma ben nacida, la sconfitta è il blasone dell'anima ben nata. Insomma, perdere bisogna anche perdere. Luigi da Bergamo, e ho chiuso, dice: ma perché parlate di calcio? Luigi, abbia pazienza, perché non possiamo parlare sempre di crisi economica apocalittica, di eutanasia, tra gli incidenti stradali delle strade in diretta e l'apertura della borsa che scende. No, ogni tanto bisogna anche così, diciamo, riservarsi lo spazio della ricreazione. Un bacio a tutti, in redazione Franca Fossati e Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini e Giorgio Mattè, linea al giornale radio e poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0.